Siamo a fine 1700 in Inghilterra e la condizione della donna è inquadrata in regole precise sull'abbigliamento, sul modo di comportarsi in società e sul modo di cavalcare. Questa donna infrange tutte queste convenzioni e sembra così libera e così felice che ha voluto approfondire con il libro dedicato a lei, sulle vie del Levante. E ho scoperto nelle prime pagine una donna altezzosa, con un modo di porsi in società tanto sicuro di sé da sembrarmi arrogante e rendermela in un primo tempo antipatica. Continuando nella lettura, ho trovato invece sicuramente una donna fuori dagli schemi dell'epoca, una donna che non si è piegata a niente e nessuno, che ha ribaltato le regole di una società occidentale nella quale lei non si trovava e non accettava, società che abbandonerà poi per sempre senza ripensamenti quando troverà se stesso durante il lungo viaggio nelle sabbie del deserto del Levante. Diventerà famosa per la sua influenza sugli sceicchi ed emiri che si ingraziava con ricchi doni e con i quali si trovava a conversare a proprio agio con la sua innata brillante capacità di argomentazioni. Sapeva infatti di politica, di medicina, di erbe, di astronomia. Per la sua abilità di profetessa tra le comunità druse fu chiamata addirittura Sibilla del Libano. Temuta e ascoltata dai potenti, riverita come la signora, Lady Esther fu alla fine del Settecento la prima europea a viaggiare nel Levante e a raggiungere le rovine dell'antica città carovaniera di Palmira. Accompagnata dal giovane amante Michael, al quale rifiutò sempre il suo matrimonio, ma al quale rimase fedele fino alla fine dei suoi giorni, e ad al medico Marion, compagno di avventure, amico al quale lasciò il suo testamento spirituale e colui che si preoccupò poi di assemblare e pubblicare la corrispondenza che Lady Esther tenne durante il lungo viaggio della sua vita. Nacque in Alkent, in Inghilterra, prima figlia di Charles III, conte di Stanhope e di Lady Esther Pitt. Donna che apparteneva a una famiglia molto benestante e influente, che però appena 25enne, causa le complicanze del parto della terza bimba, lasciò la vita terrena rendendo orfane di madre tre bimbe ancora in tenera età. Il padre si risposò solo 6 mesi dopo e da quel matrimonio nacquero tre figli maschi. Ma questa unione non fu felice e tutti i figli non ebbero mai buoni rapporti col padre, assorbito dai suoi molteplici interessi e impegni politici. Infatti, pur avendo studiato a Eton, la più grande e aristocratica scuola pubblica inglese, e completato poi gli studi a Ginevra, Charles Stanhope non fece seguire lo stesso percorso educativo ai figli. I maschi ebbero degli istruttori privati, mentre le femmine, come era d'uso all'epoca, non ebbero nessuna educazione accademica. Tra l'altro, Charles Stanhope era persuaso che lo studio servisse a distruggere la capacità di pensiero e, nonostante avesse una biblioteca personale di oltre 30.000 volumi, non permise mai la loro consultazione a nessuno dei suoi figli. In compenso, era un grande sostenitore delle attività manuali necessarie per la formazione, secondo lui, del carattere, tanto che la stessa Esther fu incaricata in gioventù di badare ai tacchini di un pascolo pubblico. Esther era alta, aveva gli occhi chiari, la pelle d'alabastro, non era bellissima, il naso era troppo marcato e la forma del viso allungata, tratti ereditati dal padre, ma aveva un portamento così fiero e così altero da non passare mai inosservata. Era una donna orgogliosa, tanto da non scendere mai a compromessi che avrebbero potuto intaccare la sua dignità personale. Per esempio, non accettò un alloggio presso il castello di Windsor perché sapeva che avrebbe dovuto abbassarsi a far la dama di corte. Era un'aristocratica, ben consapevole di avere rispetto ad altri una posizione sociale elevata e privilegiata, ma nello stesso tempo era fortemente critica verso quella società e di cui biasimava fermamente l'ipocrisia, l'avidità e ogni forma di ingiustizia. Troviamo scritto nei suoi diari: i poveri vengono puniti per colpe che non sono gravi nemmeno la metà di quelle che commettono i ricchi milord davanti agli occhi di tutti. E questa sua natura compassionevole la porterà nel tempo a privarsi di ogni suo bene per poter dare aiuto a chiunque si rivolgesse a lei, arrivando, per esempio, in un particolare freddo inverno, ad aprire la sua dimora, allora Amar Ilias, in un monastero in disuso, a tutti i contadini dei dintorni, i cui raccolti erano andati perduti per il gelo, assicurando loro un cibo almeno per una volta al giorno. In gioventù Esther, come tutte le ragazze di allora della buona società, amava frequentare i salotti aristocratici e mondani, non disdegnava le feste e i balli, dove però si presentava spesso da sola, senza accompagnatore, e suscitando così scalpore per le dame con le dame presenti. Ma lei non aveva delle amiche donne, amava discorrere di politica con gli uomini e non si curava minimamente delle regole che infrangeva, anzi se ne compiaceva, così sicura di sé da sentirsi al di sopra delle critiche. E come donna trovo un simile carattere nella quasi contemporanea Aurore Dupin, alias Georgia Senda, una parigina dalla vita fuori dagli schemi. In una società che relegava la donna al solo ruolo di moglie e madre, George indossava abiti maschili quando a Parigi un'ordinanza del prefetto proibiva alle donne di portare i pantaloni. Inoltre fumava il sigaro in pubblico e frequentava luoghi al tempo vietato dalle donne. La vita di ragazzi di Esther fu ricca sì di privilegi, ma fu anche segnata da tanti lutti. La madre lasciò il corpo quando Esther era ancora molto piccola, la nonna materna, dove si trasferì dopo aver rotto a 24 anni i legami con gli Stanhope che non l'avrebbero poi mai più perdonata, lo zio Pitt, primo ministro del Regno Unito, col quale trascorse forse uno dei periodi più felici, zio nel quale trovò il padre che non aveva mai avuto, l'affetto, amicizia, un calore familiare nonché un'alta posizione sociale. Dallo zio Pete, infatti, ebbe un vitalizio che le permise di viaggiare senza problemi economici. In seguito perse anche un fratello e un carissimo amico caduti in battaglia, e quest'ultima perdita la colpì così profondamente che si volle trasferire, isolandosi in Galles, dove studiò seriamente medicina, si dedicò alla campagna e soprattutto a tante cavalcate, sentendosi, come amava definirsi, vagabonda e libera. Tanto libera che quando il fratello rimasto fu chiamato a raggiungere il suo reggimento in Spagna, Lady Esther decise di seguirlo e cominciare così una nuova vita. Iniziò così a 34 anni l'avventura di Lady Esther. Si imbarcò via mare verso Gibilterra, che fu la prima serie di una tappa che la portarono verso le terre del Levante, da dove non farà più ritorno. Il Levante alla fine del Settecento era diventato una meta molto ambita, ma solo per i più coraggiosi, perché implicava cammini lunghi, faticosi, pericolosi, e le vie da percorrere non erano sicure, malattie e briganti erano le regole. Ma Lady Esther per Lady Esther era avventura, e nonostante il suo alto lignaggio, tanto da essere soprannominata la principessa inglese, si avventurava in questi territori senza alcuna paura, spinta dalla curiosità e dalla voglia di conoscere. A Costantinopoli, Lady Esther fu invitata a pranzo dall'ammiraglio supremo della flotta del sultano, che le invitò a visitare la nave ammiraglia della Marina turca, a patto che si presentasse in abiti maschili, cosa che la donna fece senza nessun problema, perché Esther, che era un'abile cavallerizza, contravvenendo alle regole del tempo che volevano le donne sedute su una sella adattata particolare, adattata a loro, vestite con gli allora ampi gonnelloni, cavalcava Esther invece, cavalcava cavalcioni come un uomo e si abbigliava naturalmente con pantaloni, giacche e stivali senza mai porsi nessun problema. Successivamente Esther da Costantinopoli si stabilì alle falde del Monte Olimpo e da qui passò in Egitto, dove fu la prima donna che osò penetrare sotto la volta della Grande Piramide. Ebbe successivamente un rovinoso naufragio, durante il quale perse tutti i suoi averi e una volta a terra, non possedendo più nulla di personale, fu costretta a indossare degli abiti orientali maschili. Da questo momento in poi, Lady Esther non abbandonerà più le lunghe vesti, turbante, pantofole gialle e mantello, tipico abbigliamento turca. In quei territori, però, il vestirsi da uomo era in realtà quasi d'obbligo per i viaggiatori, perché era un comodo mezzo per passare inosservati. In quanto uomo, Lady Esther poteva entrare nella moschea e uscire durante la preghiera senza essere fermata, poteva andare alla fontana delle abluzioni senza attirare attenzione, e in più di un'occasione fu addirittura scambiata per i figli del pascià. Convinse anche la sua cameriera personale a indossare abiti maschili, non riuscì però mai a farla cavalcare a cavalcioni come faceva lei come un uomo. Di questo periodo scriveva nei suoi diari: mi sento più felice vagabondando fra terre selvagge dove osservo e ammiro la bellezza della natura di quanto non sia stata al tempo in cui ero circondata da ricchezze, adulatori e sciocchi. La forza e la serenità che tanto aveva cercato dopo il naufragio le trovò nell'eliminazione delle cose superflue e l'insegnamento profondo che le diede l'Oriente fu l'affidarsi al volere della provvidenza. Nel proseguire il tour verso il cuore del Levante, alle pendici del Monte Libano, raggiunse il Monastero della Luna, un antico convento dedicato alla Vergine che in Siria è generalmente rappresentata con la falce di luna sotto i piedi. Ricordo di Astarte, la grande dea mesopotamica prepatriarcale, la dea dai mille volti, l'incarnazione dell'amore, signora della sessualità e della fertilità, anch'ella rappresentata con la falce di luna sotto i piedi o sul capo. Qua Lady Esther si trattenne per oltre un mese, durante il quale assimilò gli usi, i costumi, la religione della popolazione drusa e volle conoscere personalmente e imparare dalle donne del territorio, famose per i loro metodi di cura delle malattie con le erbe. Raggiunge poi Damasco. Varcando la porta che si apriva nelle mura della città, viso scoperto, eretta e fiera sul suo cavallo, e con lo stesso abbigliamento maschile si presentò, unica donna tra la folla senza velo al viso, come si usava nel territorio, al corteo del potente sultano Mahmud II mentre si recava a pregare alla moschea. E come farà più tardi l'italiana Maglia Nizzoli, di cui abbiamo parlato nella prima parte della viaggiatrice, volle visitare tutti gli harem più famosi perché era incuriosita dal comportamento delle donne negli harem nei confronti del loro padrone di casa. Viso coperto da velo, capo chino, si alzavano solo per porgere la pipa o versare il caffè al signore, parlavano solo se interrogate e venivano liquidate con un semplice cenno di mano. Nonostante tutto ciò fosse contrario ai principi di libertà e autonomia che Lady Esther aveva come donna, rispettava le usanze di queste persone ed era sempre ospitata e accolta con tutti gli onori dai signori degli harem con i quali intavolava lunghi e profondi dialoghi. La sua sete di avventura però non si fermò a Damasco. Lady Esther era irremovibile nella decisione di arrivare a Palmira, l'antica città carovaniera famosa per la sua regina guerriera Zenobia, figura che tanto attraeva Esther, nella quale si riconosceva come persona. Accettò la protezione dell'emire, dal quale si recò dopo aver subito gravi perdite dovute all'attacco dei predoni a 3 giorni dalla partenza. E qui, in una tenda in mezzo alle sabbie del deserto dove dimorava l'emiro, fu conquistata nel profondo dall'aria del deserto, dagli sconfinati spazi vuoti e dal silenzio assoluto. Tra le dune, Lady Esther si sentì intimamente connessa con questo mondo e con i beduini. Erano uomini fieri, liberi e soli, in un ambiente ostile, poveri ma indipendenti, tenaci e costanti osservatori della natura che li circondava e dalla quale imparavano giorno dopo giorno. Erano degli esseri chiamati barbari dagli occidentali. In realtà erano uomini pieni di senso dell'onore e di buoni sentimenti. E proprio nella durezza della vita che conducevano stava il principio della loro naturale libertà. Lady Esther entrò trionfante a Palmira e tra le rovine della città, sotto l'arco di trionfo della regina Zenobia, fu incoronata regina di Palmira. Aveva 39 anni e la prima donna occidentale a raggiungere quei posti e alle spalle un lunghissimo viaggio durante il quale aveva saputo guadagnarsi la fiducia di tutte le tribù del deserto. Cavalcava come un uomo, portava una lunga lancia decorata di penne nere. Indossava la veste beduina, calzava stivali ampi, gialli e sentendosi finalmente a suo agio, scriveva nei suoi diari e corrispondenza di amare sopra ogni altra cosa la propria errabonda vita araba. Dopo Palmira, Lady Esther si stanziò alle pendici del Monte Libano, dove sopravvisse a un'epidemia di peste scoppiata nel territorio e altri due attacchi di malaria, che minarono la sua costituzione, costringendole a recarsi in una a recarsi a Marillias, che era un monastero in disuso dove venne raggiunta da due notizie. La sorella minore aveva lasciato il corpo e in Inghilterra bisognava provvedere al saldo di una onerosa cambiale che bisognava pagare. Sempre più debole, sia nel corpo che nell'animo, su consiglio del dottore si trasferì in un villaggio di montagna dal clima mite dove riacquistò salute ed energia. Sulla via del ritorno a Marillias, quando era guarita, volle visitare un monastero famoso per i miracoli del suo santo protettore, ma le fu negata l'entrata perché, secondo una leggenda tramandata sicuramente da un uomo, il santo si sarebbe altamente offeso se una donna avesse osato varcare la soglia del convento. Lady Esther, che male accettava rifiuti di qualsiasi genere, rispose con la diplomatica offerta di un pranzo per il superiore, i frati e il signore della cittadina, da allestirsi però proprio in uno dei locali dello stesso monastero, avvisando che avrebbe considerato oltraggioso un ulteriore rifiuto e nel caso avrebbe informato l'amico emiro del luogo, il quale sicuramente se ne sarebbe risentito. Non lasciando alternative, fu ricevuta e varcò la soglia del convento a cavalcioni della sua asina con il suo usuale portamento altero, sfidando apertamente così la volontà del santo che non voleva le donne. E deludendo la folla corsa che si aspettava per questa infrazione il crollo del pavimento sotto i piedi blasfemi di Lady Esther. Non successe nulla di apocalittico e lei visitò tutte le stanze del monastero accompagnata dal superiore prima di offrire il pranzo. Fu un aperto sacrilegio, un atto di sfida e di grande audacia, ma le valse ancora una volta la stima e la deferenza di tutto il territorio. Sul territorio Lady Esther ebbe anche una notevole influenza politica. In una particolare occasione venne ringraziata pubblicamente con un discorso alla Camera dei Deputati di Parigi quando si prodigò nella ricerca di un colonnello francese scomparso nel deserto, scrisse a titolo personale a tutti i pascià del territorio, chiedendo loro l'invio di uomini alla ricerca del colonnello, a dimostrazione della lealtà che tutti avevano verso di lei, risposero e furono setacciati vari villaggi fino al ritrovamento dei resti e degli averi rubati al colonnello. Lady Esther a questo punto era diventata una leggenda e i viaggiatori che passavano presso il Monte Libano chiedevano di essere ricevuti da questa signora, rimanendo impressionati dalla sua personalità. Lei era sempre attenta e aggiornata sulla società e sui fatti politici, sia del territorio che anche dell'Occidente, e manifestava con grande capacità di giudizio critico il suo disprezzo della storia, ritenendolo un cumulo di menzogne e una farsa, proclamando che la vera conoscenza non era sui libri, ma nel viaggio e nella conoscenza in loco di persone, costumi e situazioni. Bisognava vivere a confronto con la gente dei territori visitati, ascoltare le loro storie, apprenderne le usanze e le tradizioni, immergersi nell'ambiente, nelle difficoltà e potendolo fare aiutare chi è meno fortunato. Questo suo pensare mi ricorda la scrittrice Daisy Bates, nominata dagli aborigeni australiana Kabarly o Grande Madre, che visse per gran parte della sua vita in una tenda nei campi dei nativi, o Gertrude Bell, la regina del deserto, un secolo dopo Esther, la pittrice di Totem, Emily Carr, che visse a stretto contatto con i nativi canadesi, donne che abbandonarono l'agiatezza per vivere a contatto con i popoli dei territori, assorbendone la cultura e capendo fino in fondo il loro mondo, mondo che l'Occidente considerava arretrato e incivile. Da Marilias, Lady Esther si trasferì a Jun, nel cuore del Monte Libano, in un monastero praticamente inaccessibile, arroccato su di una montagna, dove accolse e dette asilo al grandissimo numero di perseguitati e vagabondi senza casa, ai contadini che erano poi le vere vittime dei giochi di poteri che intercorrevano in quel territorio tra i vari sultani. Era oberata dai debiti e dagli interessi degli usurai ai quali si rivolgeva per trovare denaro necessario per aiutare coloro che si rivolgevano a lei. Sempre più debole nel fisico, troncò definitivamente ogni contatto epistolare con l'Inghilterra. Si isolò studiando astrologia, erbe, scienze occulte e le religioni levantine, allontanandosi sempre più dal mondo occidentale fino a quando, venuta a conoscenza del suicidio del fratello, si chiuse in un totale isolamento, non varcando più le mura del suo giardino. Raramente ormai accettava di ricevere qualche visitatore che si avventurava per vedere la signora. E forse, vergognandosi del decadimento del suo corpo, debole e malato, riceveva esclusivamente quando fuori era buio, sedute in un angolo della stanza, lasciando intravedere solo le mani, il viso e il capo coperto dal turbante. Lady Esther lasciò il corpo a 63 anni, in solitudine e in miseria, chiusa fra le mura delle sue stanze di June, dove si era fatta murare viva in segno di protesta contro il provvedimento preso dal Parlamento britannico di toglierle il vitalizio a causa del debito non pagato. Venne trovata con il corpo già in decomposizione, sepolta in giardino. Poi le sue spoglie furono negli anni Ottanta interrate nel giardino della residenza estiva dell'ambasciatore britannico fino al 2004, quando vennero ridotte in cenere e sparse intorno alle rovine della casa che l'avevano ospitata negli ultimi anni a Jun. Circe dei deserti, sibilla del Libano, regina, profetessa, pazza, visionaria. È stata definita in tanti modi, criticata, mitizzata, dimenticata. Non è merito mio se ho una mente così fertile e attiva. Credo di essere stata dotata per qualche scopo e non farei il mio dovere se mi comportassi come una larva nel mio passaggio sulla terra senza fare nessuno sforzo per rendermi utile. Queste sono le parole lasciate all'unico uomo che le rimase accanto, nel bene e nel male, per quasi tutta la vita, il dottor Charles Marion, il quale le dedicò una biografia in 6 volumi fatta per difendere la reputazione di una gentildonna perseguitata. E qui ho finito Lady Esther e passerei a Belane Moksali. 6 anni dopo che la regina, appunto, dei Beduini aveva lasciato la sua vita avventurosa, nacque in Ungheria Belané Moksari a Pomaz. Era il 1845 e la futura viaggiatrice, scrittrice e geografa si chiamava ancora solo Maria Fey. Da grande si sarebbe avventurata in tutto il globo riportando e descrivendo minuziosamente nei suoi appunti ogni particolare dei viaggi, divenendo di fatto la creatrice delle prime guide di viaggio ungherese. Fino ad allora le viaggiatrici scrivevano romanzi o brevi resoconti dei loro viaggi che venivano poi pubblicati sui giornali o su delle riviste. Ma Belané, in Ungheria, si rese conto che se si voleva andare in un posto lontano era utile sapere dove alloggiare, quali erano gli hotel migliori, cosa portare in valigia, quali erano gli usi e i costumi locali. In Europa occidentale questa idea era già stata presa in considerazione decenni prima dalla pioniera delle guide di viaggio Mariana Stark, che nacque in Inghilterra nel 1762 e crebbe nella tenuta del padre, dove trascorse i primi 30 anni della sua vita scrivendo opere teatrali e tragedie. A 30 anni Marianne, insieme ai genitori e a una sorella, si trasferì nel sud della Francia e poi in Italia per curare la tubercolosi che aveva colpito la famiglia e la cui cura voleva e necessitava di un territorio con clima caldo e asciutto. Nonostante ciò, nei 7 anni successivi, prima la sorella e poi i genitori lasciarono il corpo in seguito a complicanze della malattia. Mariana trovò conforto nella sua passione di sempre, la scrittura, e decise di annotare le sue esperienze di viaggio e di vita in Italia in 2 volumi. Erano delle guide pratiche per coloro che dovevano recarsi in Italia, come il rilascio del passaporto, i prodotti e accessori da portare con sé, con un'attenzione particolare all'abbigliamento e alle medicine. Mariana era una donna molto attenta ai cambiamenti, della società e consapevole di quanto il suo lavoro di informazione sarebbe stato utile e, fondamentale al sostegno della grande mole di spostamenti futuri, propose i resoconti al noto editore Mary II, lo stesso editore di Jane Austen, uomo lungimirante che trovò l'idea di Mariana rivoluzionaria e pubblicò le sue guide. Successivamente, grazie all'intuizione del figlio John Mary III, cominciò a pubblicare le Mary's Handbooks, guide che con le loro copertine rosse dai caratteri dorati, da un formato maneggevole adatto ad essere portato in tasca o in borsa, ottennero subito un grande successo. Mary III assemblò i primi handbooks utilizzando soprattutto gli appunti tratti dai suoi viaggi. Diventarono simboli del turismo, finestre aperte sull'Europa continentale, veri e propri dei prodotti pratici, ma anche culturali. Infatti, molti scrittori di narrativa si rifecero dagli handbooks alle descrizioni di luoghi stranieri direttamente dalle pagine descrittive degli handbooks. Iniziarono ad essere datati quando l'aggiornamento delle guide non fu più regolare. I dati riportati divennero obsoleti, soprattutto con l'avvento e l'espansione delle ferrovie, che diede un notevole incentivo al viaggio. E mentre gli handbooks in Inghilterra erano al loro apice di successo, in Germania l'editore tedesco Karl Baedeker pubblicò la prima guida turistica d'Europa, che divenne famosa per i suoi contenuti dettagliati e la sua accuratezza. Inventò anche il primo sistema di valutazione a stelle, cosa che vige ancora oggi. E mentre in Europa occidentale, agli inizi dell'Ottocento, le scuole cominciavano ad aprire le porte anche alle donne, permettendo loro di acquisire una consapevolezza di sé e del proprio valore, in Ungheria, solo alla fine del 1800, fu fondata per merito sempre di una donna, Palne Veres, insegnante della regione slovacca del Regno d'Ungheria, un'associazione per la formazione della donna, associazione che fu determinante poi per realizzare 2 anni dopo l'apertura delle scuole femminili. E fu solo a partire proprio dal 1896 che facoltà come medicina, farmacia, ingegneria iniziarono a ammettere agli studi anche le prime studentesse. Tuttavia, in Ungheria, le donne in possesso di un'istruzione o che cercavano di ottenerla dovevano ancora combattere come le loro coetanee in Europa occidentale, sia contro i pregiudizi esterni che contro quelli nascosti dentro di sé, frutto di decenni di indottrinamento patriarcali. In questo contesto di fermento culturale e in una società, quella ungherese, ancora prevalentemente agricola, nasceva Maria Fei, da genitori benestanti e proprietari terrieri. La madre però lasciò il corpo quando Maria aveva solo 1 anno. Il padre, insieme al suo ex tutore di professione scrittore, si prese cura della bambina, assicurandole un'ottima istruzione. Tanto che a 14 anni Maria parlava fluentemente diverse lingue. Inoltre, suo padre era un appassionato viaggiatore e spesso portava Maria con sé, facendogli conoscere diverse culture, usi e costumi. E quando la portò a visitare Venezia, esplose anche in lei la stessa sua passione, la passione che non l'avrebbe mai più abbandonata. A 16 anni appena compiuti, perché a quell'epoca era piuttosto normale che le fanciulle si maritassero giovanissime, sposò il proprietario terriero Bela Moxley e adottò il suo nome composto diventando Belané Moxley Maria Fey. A 45 anni Belané però perse il marito. E senza figli, con un discreto patrimonio derivante dalle proprietà agricole, iniziò una nuova vita, fatta di viaggi e di scrittura. A 48 anni, insieme alla sorella Margit, viaggiò nei Balcani e in Medio Oriente. Navigò sul Nilo e fu durante questo viaggio in soli 2 mesi che riuscì a imparare l'inglese che le servì poi nelle sue future avventure. Pochi mesi dopo il ritorno dai Balcani, volle esaudire il suo più grande desiderio di fanciulla, vedere l'India, l'Himalaya e l'isola di Ceylon, l'odierno Sri Lanka. Organizzò così il suo primo viaggio in solitaria, trovando la prima difficoltà nel reperire informazioni sui territori che voleva visitare, perché la guida Baedeker sull'India non esisteva ancora e neppure riusciva a trovare scritti nelle librerie di Budapest. Partì in giugno alla volta dall'India dopo aver ricevuto informazioni da un parente, organizzando un viaggio della durata di 3 mesi durante la quale scrisse il primo Baedeker in ungherese su queste aree del mondo. Belanè, durante i soggiorni, annotava con precisione le condizioni di viaggio, gli alberghi, la vegetazione, il clima dei luoghi, la sua storia, i monumenti, le chiese. Apriva al lettore ungherese degli orizzonti nuovi e affascinanti. Inoltre, era anche un'abile fotografa. Imprimeva su pellicola ogni particolare del viaggio, arricchendo così e illustrando con le sue numerose foto i suoi scritti e articoli. Il suo primo libro, Indian Sinus Note, fu illustrato con 80 foto da lei scattate e fu un grandissimo successo. Belanè era una donna che parlava alle donne e voleva inculcare in loro il desiderio di viaggiare, rompendo con le rigide regole della loro società che le voleva solo come accompagnatrici dei mariti. I suoi scritti non riportavano commenti sociali o politici, argomenti inaccettabili per le donne in quel periodo. Erano solo dei siti turistici sui paesaggi, vere e proprie istruzioni sui modi di viaggiare e sulle bellezze del mondo. Voleva appunto che le donne potessero aprire il proprio orizzonte, magari solo per sognare, ma tutte sappiamo che il sogno è il primo passo che spinge verso la libertà. Rispetto a altre viaggiatrici, Belenè fu doppiamente coraggiosa e eccentrica, in quanto cominciò a viaggiare a 50 anni. Età nella quale una donna nell'Ottocento era ormai considerata vecchia. Ma lei, contravvenendo a questo stereotipo, si recò 2 volte negli Stati Uniti e in Alaska e a 59 anni visitò il Messico, descritto da altri viaggiatori come pericolosissimo, ma che lei invece definì una terra tanto sicura da poter essere esplorata anche da una donna sola come lei. Inoltre, Belanè era un'attenta osservatrice dei territori in cui viaggiava, ma prestava anche molta attenzione alla natura. Raccoglieva, catalogava, rappresentava i fiori e i pianti come un vero botanico. Era una viaggiatrice molto nota ai suoi tempi, era membro della Società Geografica Ungherese ed era chiamata spesso a tenere conferenze sui suoi viaggi. Negli ultimi suoi anni si ritirò nella sua tenuta in Austria, dove lasciò il corpo a 72 anni, consapevole che le esperienze acquisite durante tutti i suoi viaggi, le bellezze, i luoghi, le tante culture conosciute avevano contribuito a trasformare nel tempo tutto il suo essere. Allora, partiamo adesso con Louisa Arnett Boyd e siamo nel freddo polare artico sulle tracce di un'altra temeraria esploratrice, questa volta americana, affascinata dai ghiacciai della Groenlandia. Louisa Arnett Boyd nacque in California, ultima di 3 figli di una famiglia molto ricca. Il padre, uomo burbero e schietto, era comproprietario di una miniera d'oro con la passione per i cavalli da corsa. Era un uomo dalle umili origini che si era fatto tutto da solo. Da adolescente aveva lasciato la sua casa di campagna per cercare fortuna e insieme ai fratelli lo trovò successo nel lavoro minerario. Riuscì ad acquistare la proprietà di una miniera e dopo aver guadagnato 1 milione, John Boy, partito dal niente, poté orgogliosamente affermare di essere arrivato. Immaginiamo ora Luisa bimba con i due fratelli. Seth, il maggiore, e Jack, l'ultimo, accoccolati ai piedi del padre mentre ascoltavano affascinati le storie dei cercatori d'oro e degli uomini delle miniere che il padre amava raccontare loro, orgoglioso del proprio successo. Louise imparava così il valore del lavoro con la determinazione e la volontà di imparare per dimostrare, prima a se stessi, poi agli altri, che la vita offre possibilità di successo anche a chi parte da zero. Ma la storia che appassionava di più Luisa e i fratelli era intrisa di romantico, l'incontro dei genitori, il corteggiamento e il loro matrimonio. Se gli inizi di John Boy furono umili e modesti, le origini della madre furono intellettuali e patrizie. Era figlia unica di Theodocia Cook Arner e del dottor Thomas Arner di Rochester a New York. Il nonno prestò eroicamente servizio come chirurgo durante la guerra civile, ma perse la vita a 35 anni causa la tubercolosi. Theodocia era insegnante alla Rochester Female Academy, era una convinta patriota e questo suo amore per la patria lo trasferì alla figlia, che fu una dei primi membri della National Society of the Daughters of the American Revolution e della National Society of the Colonial Dames of America, i cui membri rivendicavano la diretta discendenza dai leader delle 13 colonie originarie. I figli Seth, Jack e Louise crebbero con i racconti delle ceste dei primi americani e quando Louise iniziò a esplorare le remote regioni polari, memore di questa sua discendenza, lo fece con l'ardore e l'orgoglio di rappresentare il suo paese. I racconti dei nonni avvenivano nelle proprietà dei Boyd a San Rafael, che è tutt'oggi una delle più belle tenute della città ed è stata chiamata ufficialmente Mapo Lou, prato di acero, a causa degli splendidi aceri giapponesi che adornano la tenuta. Per 6 mesi all'anno la famiglia Boyd si trasferiva in estate in questa splendida dimora sulle colline di Oakland. Nella tenuta vi era una lussuosissima villa a due piani in stile italiano. Vi erano giardini lussureggianti, una sala da biliardo, una pista di bowling, scuderia di cavalli da esposizione, una rimessa di carrozze, latteria, fienile, bestiame tra cui un centinaio di cavalli puro sangue e 300 bovini da latte. Il padre inoltre migliorò nel tempo la pista da corse di cavalli erigendo una tribuna panoramica, ottenendo così per la tenuta una reputazione internazionale. Luisa e i fratelli, immaginati in questo paradisiaco luogo, cavalcavano, esploravano, conducevano una vita avventurosissima. Luisa era una bravissima, tra l'altro, attiratrice con mano ferma e uno degli oggetti dalla quale non si separò mai e conservò per tutta la vita fu una pistola Derringer 44 di suo padre. Durante questo periodo Luisa e i fratelli ricevevano un'istruzione privata che comprendeva per Luisa studio del pianoforte, canto. E siccome un giorno la ragazza avrebbe dovuto sposarsi e abbellire la vita di suo marito, veniva invogliata a stare con la madre per fare lavori di cucito, ricamo e altri prettamente femminili. Ma Luisa, sebbene si divertisse anche nello studio, amava i giochi d'avventura, non vedeva l'ora di scorrazzare per la tenuta e correre verso la tribuna per poter cavalcare con la stessa passione per i cavalli tramandate da suo padre. Un'altra delle occupazioni preferite da Luisa era la lettura che svolgeva nella grande biblioteca della villa, dove si isolava per ore sfogliando i libri di avventura, sognando quelli che trattavano l'esplorazione polare e le terre ghiacciate. Fino a questo momento, come possiamo vedere, la vita della famiglia era idilliaca il futuro si prospettava altrettanto brillante, ma il destino a volte è terribile. Seth, il fratello maggiore, venne trovato senza vita in camera sua e in seguito si venne a sapere che il cuore debole di Seth non aveva sopportato una brutta febbre reumatica. Anche al fratello minore era stata diagnosticata la stessa debolezza di cuore e anche a lui, a causa di uno strapazzo durante la gita scolastica, il cuore si fermò a scuola quando aveva 18 anni, 8 mesi dopo la dipartita del fratello Setta. Luisa allora era solo una ragazzina, aveva perso in poco tempo gli amici, i compagni di gioco e inoltre assorbiva il forte dolore dei genitori, i quali, dopo un periodo di lutto, in cerca di un po' di tranquillità e pace, e soprattutto per Luisa, partirono per un lungo viaggio alla volta dell'Europa. Poco dopo il loro arrivo, il 18 aprile 1906, un potente terremoto colpì San Francisco e la costa della California settentrionale e fu uno dei peggiori, delle peggiori calamità naturali che la storia ricordi. Dopo le scosse scoppiarono incendi e crolli che misero in ginocchio il territorio. I Boyd tornarono al più presto a San Francisco, trovandola devastata. La loro casa e la loro comunità a San Rafael non erano state colpite duramente, ma migliaia di famiglie erano senza casa, numerosi campi profughi erano stati allestiti, così che Luisa, sua madre e altre donne unirono le forze per aiutare i malati e assistere con generi di prima necessità. E fu in questa situazione, a 18 anni, che Luisa imparò l'importanza della compassione e del lavoro di squadra in periodi di crisi. Dopo la perdita dei figli maschi, i genitori riversarono tutte, le loro attenzioni su Luisa e a 18 anni la madre la presentò in società. E come era d'uso in quell'epoca, cercò per lei un buon partito da sposare e mettere su famiglia. Nonostante però i pretendenti fossero tanti e provenienti dalle più illustri famiglie di allora, alla giovane non piacque nessuno. Era una ragazza con un forte carattere, autonoma e spirito libero a casarsi, diventare moglie e madre, rispettando la regola dell'epoca, che vedeva la donna solo come un semplice ornamento della casa, non era certamente la cosa a cui aspirava. Lei amava viaggiare, esplorare nuovi territori, conoscere nuove gente, mettersi alla prova. A 31 anni dette prova del suo coraggio e determinazione, affrontando in solitaria la prima grande impresa. Prese un treno per Buffalo, dove acquistò un'auto e attraversò gli Stati Uniti in condizioni a dir poco rischiose, perché le strade allora erano solo delle piste sterrate, non erano segnalate su mappe e inoltre la cosa per una donna sola in quell'epoca sarebbe stata inconcepibile anche su strade normali. Eppure, viaggiando su queste strade, Luisa si rese conto che la sua vita futura l'avrebbe dedicata ai viaggi, unitamente alle sue due grandi passioni, la scrittura e la fotografia. I genitori di Luisa lasciarono il corpo a breve distanza l'uno dall'altro e lasciarono Luisa a 32 anni, figlia unica, erede milionaria. In un primo tempo assunse la presidenza della compagnia del padre e si dedicò alle iniziative filantropiche dalla madre, ma il suo animo inquieto e insoddisfatto sentì che quella non era la sua vita. Sin da bambina la sua passione erano stati i viaggi e le letture dei resoconti delle grandi esplorazioni del nord, e ora sola al mondo, senza legami affettivi, con una grandissima possibilità economica, poteva avverare tutti i sogni fatti sui libri. A 37 anni si imbarcò su una nave verso Capo Nord e Luisa rimase talmente affascinata da quelle terre ghiacciate, da quella natura selvaggia e quel territorio totalmente inesplorato, che decise di voler dedicare il resto della sua vita e il suo grande patrimonio a conoscerla. Da quel momento finanziò 4 spedizioni, pianificando ogni minimo aspetto, assunse l'equipaggio adatto, 10 scienziati che l'avrebbero aiutata, affittò tutti i mezzi necessari per navigare nelle acque gelate. A 38 anni noleggiò la baleniera Hobby, già utilizzata dall'esploratore polare Roald Amundsen, dimostrando al mondo intero di come una donna fosse in grado di organizzare e assumere il comando di una nave quando intraprese il suo primo viaggio con amici visitando le isole del nord della Russia, dedicandosi alla caccia dell'orso, sport all'epoca in vigore tra i giovani benestanti. Ciò le diede visibilità e fama, tanto che le sue geste diventarono scoop giornalistici ricchestissimi e le avvalsero l'appellativo di la ragazza che domò l'Artico. E mentre Luisa pianificava il suo secondo viaggio, giunse la notizia che l'esploratore Amundsen, anche egli in missione di salvataggio, era disperso tra i ghiacci. Luisa, che aveva già noleggiato la baleniera Hobby, la offrì al governo norvegese per le ricerche, con gli unici prerequisiti che lei e i suoi ospiti avrebbero partecipato, che la nave avrebbe navigato sotto bandiera americana, e qui emerge il suo spirito patriottico tramandatole dalla nonna, e che lei non avrebbe avuto trattamento speciale riservato alle donne. Le ricerche si rivelarono vane. Amundsen e l'equipaggio non furono mai ritrovati, ma Luisa, come ricompensa per l'aiuto prestato al governo, divenne la prima americana e la terza donna nel mondo a ricevere la croce di cavaliere norvegese dall'Ordine di Sant'Olav. A Luis questa esperienza diede inoltre la possibilità di partecipare come ospite d'onore a un grande incontro commemorativo per Amundsen, e in questo contesto fece la conoscenza di ricercatori polari della Norvegia centrale, facendosi accettare da un'elite che la introdusse nell'ambiente della ricerca polare. Trascorse così gran parte degli anni 30 esplorando le selvagge coste della Groenlandia, diventando famosa in tutto il mondo per i suoi contributi allo studio della cultura e della fauna selvatica di questa grande isola. Louise acquistò le attrezzature più moderne disponibili per il rilevamento del fondale marino e nel corso delle sue spedizioni scoprì catene montuose sommerse. Misurò la profondità del mare, mappò aree della Groenlandia mai riprodotte su carte, raggiunse i fiordi più remoti e scoprì centinaia di specie botaniche sconosciute. Un fiordo della Groenlandia orientale è stato chiamato Luisborg Land in suo onore. La sua ricchezza rese anche possibile investire nelle migliori attrezzature fotografiche sul mercato, con le quali, da abile fotografa qual era, scattò migliaia di fotografie creando mappe e registrazioni fotografiche di alta qualità che ancora oggi sono un importante punto di riferimento nella storia della ricerca criosferica, e le sue ricerche sono utilizzate da chi studia il cambiamento climatico ancora oggi. Durante un'intervista radiofonica fu chiesto a Luisa quali ostacoli avesse dovuto affrontare durante la sua carriera polare, e lei affermò che i suoi maggiori problemi erano stati essere una donna e la mancanza di qualifiche scientifiche di studio. Aveva dovuto affrontare come leader di spedizioni polari molte sfide, che fu pesantemente criticata dagli scienziati uomini, perché le donne, secondo il pensare comune di allora, erano al massimo compatibili con lavori di laboratorio o progettazioni di manuali e libri, ma Luisa scardinò questo senso comune. Era una donna sempre pronta all'avventura. I suoi lavori furono pubblicati e condivisi dall'American Geographical Society, che le rese famosa, e tuttavia a Luisa non interessavano fama e onori. La sua era solo voglia e sete di conoscenza. La stessa sete di conoscenza dalla quale era intrisa l'animo di tutte le viaggiatrici donne che sfidavano gli stereotipi di società, si inoltravano in territori sconosciuti, percorrevano strade pericolose mettendo a repentaglio la loro vita pur di conoscere, di dimostrare a se stesse prima che agli altri di essere in grado di fare le stesse cose del genere maschile. Luisa non era solo una esploratrice, non era solo fotografa e scrittrice, lei era prima di tutto una donna e smentiva che categoricamente ogni pettegolo pregiudizio che la voleva mascolina, in quanto viaggiatrice su di una baleniera insieme a scienziati e marinai uomini. Benché vestita della sua indispensabile e necessaria tenuta artica, non tralasciava mai il trucco. Spesso, a bordo, portava una cameriera personale e viaggiava con una valigia disegnata apposta per lei da Louis Vuitton. Lei stessa ammetteva di non trascurare il suo aspetto, nonostante l'abbigliamento artico, le tute termiche e gli stivaloni con cui a volte andava anche a dormire. Come scuola delle donne riusciamo a immaginare alzarsi la mattina prestissimo, salire in coperta, intabarrata fino agli occhi, a respirare l'aria frizzante, fare colazione a base di caffè, pane tostato e aringhe, per poi buttarsi nel lavoro di misurazione, fotografia, annotazione di tutto ciò che vedeva e ciò che veniva detto dagli tecnici di bordo, senza dimenticare però di incipriarsi il naso e darsi appena un velo di profumo. Passava con grazia e senza alcuna difficoltà dallo stile spartano richiesto dalla vita di bordo a quello raffinato della ricca società alla quale apparteneva. A 47 anni, grazie alla sua vasta esperienza, fu delegata al Congresso Geografico Internazionale a Varsavia, dove si presentò con tutta la coreografia e gli accessori richiesti al suo personaggio, spedì in Polonia la sua limousine personale con autista privato, fece la sua apparizione al congresso, abbigliata all'ultima moda parigina, suscitando ammirazione in tutti i presenti. Qualche anno dopo compì altre due missioni di ricerca lungo le coste della Groenlandia e nell'Artico canadese, riuscendo a raggiungere il punto più vicino possibile al Polo Nord, a 800 miglia di distanza, stabilendo un nuovo record. Inoltre, allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, i suoi viaggi subirono un arresto, ma il governo degli Stati Uniti le affidò la missione di studiare gli effetti del magnetismo polare sulle trasmissioni radio, missione che durò 6 mesi, che si concluse con ottimi risultati, tanto che a fine guerra Louise ricevette un attestato dall'esercito statunitense per l'esemplare servizio di grande beneficio alla causa della vittoria. All'età di 60 anni tornò alla mondana vita californiana, dove si dedicò a iniziative benefiche. Le furono conferite lauree ad honorem e fu la seconda donna in assoluto a ricevere la Cullum Geographical Medal dall'American Geographical Society come riconoscimento della sua intraprendenza e spirito di esplorazione. Intraprendenza che la spinse a 68 anni ad affrontare l'ultima rischiosa avventura. Noleggiò un aereo DC-4 e sorvolò l'Artico raggiungendo il Polo Nord geografico con un volo di 16 ore ininterrotte andata e ritorno. Fu la prima donna a farlo. Solo 30 anni dopo, nel 1986, un'altra donna, Anne Bancroft, riuscirà nell'impresa. A 73 anni, Louise fu la prima donna ammessa nel consiglio dell'American Geographical Society. Lasciò il corpo a San Rafael a 85 anni. Malata da tempo, dovette vendere la casa di famiglia e tutto ciò che conteneva perché le straordinarie avventure su ghiacci avevano prosciugato tutti i suoi beni. Le sue ceneri, secondo il suo desiderio, sono state disperse in quel mare artico che lei considerava la sua vera casa. La sua ricchezza le aveva permesso una vita fuori dall'ordinario e le aveva aperto anche molte porte, ma non sarebbe andata tanto lontana senza intelligenza, ingegno, ambizione e capacità di duro lavoro. Pur non avendo qualifiche accademiche, riuscì a farsi accettare in un ambiente dominato dagli uomini e come capo spedizione e fotografa ci ha lasciato in eredità le sue fotografie di ghiacciai e forme paesaggistiche che contribuirono al delinearsi della glaciologia come scienza di ricerca moderna. E passiamo dal freddo, dalla neve, dal ghiaccio al torrido caldo del deserto del Sahara, dove Eva Dixon, una sportiva dal temperamento selvaggio e indomito, a 27 anni fu la prima donna ad attraversare su una Chevrolet scoperta a quattro posti. Eva nacque in una famiglia di ricchi allevatori di cavalli. Suo padre era un famoso allevatore di cavalli da corsa ed Eva ereditò da lui la passione per questi destrieri. Forse è proprio lanciando al galoppo il suo cavallo che provò la prima ebbrezza della velocità con l'adrenalina che saliva quando doveva saltare gli ostacoli, la stessa ebbrezza che trovò poi amplificata quando salì sulla sua prima auto da corsa. Interessante trovare tra antenate viaggiatrici ed esploratrici come il cavallo fosse un simbolo comune. La stessa passione per questo fiero animale accomunava Lady Esther, Louise ed Eva, che in epoche diverse trovavano in un cavallo un amico, un compagno e un mezzo per viaggiare. Eva crebbe in un ambiente benestante insieme al fratello di un anno più grande. La madre apparteneva all'alta società e la sua vita si svolse tra balli, battute di caccia e viaggi. Eva visse i primi anni della sua vita in un castello, dove venne istruita insieme al fratello da una governante privata. Iniziò a frequentare la scuola pubblica all'età di 10 anni, quando la famiglia si trasferì a Stoccolma, dove il padre fu assunto come direttore capo in un allevamento di cavalli. La sua adolescenza fu l'insegna del lusso dell'alta società. Frequentava l'élite culturale della città. E cresciuta bella e sicura di sé, divenne la musa dei pittori, scultori, fotografi per i quali posò. Dalla passione dei cavalli passò a quella per le automobili e appena diciannovenne ottenne la patente di guida e quando a 20 anni incontrò e sposò il proprietario terriero e pilota di rally Olof Dixon, viaggiò con lui in tutta Europa in auto e in moto. Olof le insegnò la guida sportiva e la incoraggiò a partecipare alle gare. E siccome all'epoca la gara era aperta solo agli uomini, per anni Eva si registrò con lo pseudonimo maschile di Anton Johansson. Era una pilota forte, senza paura e spericolata. A 22 anni partecipò al suo primo grande rally, classificandosi tra i primi, cosa che la fece aumentare la voglia di correre. La stampa si interessò molto a lei, donna eccentrica, fuori dagli schemi dell'epoca. In un particolare episodio scandalizzò l'intera città di Stoccolma quando lei e suo marito, a bordo di un'auto sportiva, attraversarono la città indossando solo un costume da bagno, consapevoli di sfidare il perbenismo sociale con allegra sfrontatezza. A 3 anni dal matrimonio nacque il primo figlio, ma l'unione non durò. Il marito desiderava a questo punto una moglie tradizionale dedita alla famiglia e alla casa, ma la sete di avventura di Eva era troppo grande. A 25 anni, con una sua amica, partì per un viaggio in auto verso Parigi e Roma e questo portò alla rottura definitiva con Olof, dal quale divorziò 2 anni dopo. Nello stesso anno, Eva Dixon divenne la terza donna svedese ad ottenere la licenza di pilota. E venne il momento della grande avventura, la traversata del deserto. La Chevrolet fu equipaggiata con acqua, barili di petrolio, pezzi di ricambio per la macchina. Si procurò Eva, anche un copilota kenyota, insieme al quale attraversò Kenya, Uganda e Chad. Durante il lungo tragitto contrasse la malaria, ebbe una febbre altissima, dolori muscolari, brividi, ma non mollò mai e 40 giorni dopo sbucò sul Mediterraneo ad Algeri e da lì tornò in Svezia. Nello stesso anno conobbe il barone Bjørn von Blixen-Feinecke, cacciatore e organizzatore di safari in Africa, amico di suo fratello. Blixen aveva 46 anni ed era l'ex marito di Karen Blixen, amata autrice della Mia Africa. Eva ne aveva 27, era alta, bionda, bella e selvaggia, indipendente e libera. Il barone se ne innamorò e dopo un breve periodo nel quale vissero insieme in Africa si sposarono a New York. A Karen, così indipendente, pluralista e generosa, sarebbe piaciuta la nuova moglie di Bjørn. Lei e Bjørn erano divorziati da anni. Riusciamo a immaginare Eva e Karen bere il tè nella veranda della fattoria in Kenya. Ma questo non avrebbe potuto accadere perché Karen era tornata in Danimarca l'anno prima e non rimise mai più piede in Africa. A 30 anni Eva Diventò corrispondente di guerra per un giornale svedese durante la crisi di Etiopia e Abissinia. Ritornò dall'Etiopia viaggiando per 2000 km a dorso di mulo fino in Kenya. I suoi viaggi attirarono l'attenzione dell'opinione pubblica. Era una delle poche donne del tempo a guidare l'auto e l'unica a partecipare a gare e corse sportive. Viaggiava da sola con la propria autovettura, finanziava da sé i suoi viaggi grazie a delle scommesse con le varie personalità del suo mondo, pubblicazione di guide di viaggio, descrizione delle sue incredibili esperienze. A 31 anni si rimise al volante per avverare il suo grande sogno, essere la prima donna a percorrere la Via della Seta da Stoccolma a Pechino. Partì in giugno guidando in solitaria una Ford attrezzata. Attraversò Germania, Polonia, Romania, Turchia, Siria e Iran e descrisse questo percorso orientale come un incubo. Dovette affrontare ladri e banditi, tempeste di sabbia e un caldo terribile. Arrivati in Afghanistan, le fu consigliato di passare per l'India, essendo il percorso da lei scelto troppo pericoloso per una donna. Ma quando arrivò a Calcutta si ammalò e fu ricoverata in ospedale. Aveva finito i soldi. La Cina era entrata in guerra col Giappone e non poté dunque portare a termine il suo piano. Dopo diverse settimane si rimise in viaggio, ma era ancora troppo debole per tornare in Europa. Arrivò ben 9 mesi dopo in Iraq, dove, guidando di notte su strade sconnesse in una curva troppo stretta, perse il controllo dell'auto che si ribaltò. Eva rimase schiacciata tra il sedile e il volante, lasciando il corpo sul colpo a soli 33 anni. La salma venne trasportata in Svezia e fu sepolta a Stoccolma.